passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, 18 e 8 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, allora, ripeto il numero verde 800 24 00 24, partiamo così. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai. Con l'età, se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà. Denis Verdini io. E la sua conferenza stampa, ne sono successe di tutti i colori. Innanzitutto le spiegazioni, chiamiamole così, di Verdini di fronte ai giornalisti sull'inchiesta, eccetera, eccetera. Qualche estratto, dice Verdini, da P3, grande titolo pericoloso per la democrazia, sentite. La P3 per me è un grande titolo che va riempito e che quindi occorre dargli, come dire, un contenuto su una roba, a mio giudizio, inesistente e pericolosissima per la democrazia, non nel senso inteso che si cerca dargli in questi giorni, ma per il fatto che se di quello che è accaduto con la P2, delle ingiuste questioni che sono state perpetrate per anni e per le sentenze della magistratura che poi hanno, come dire, fatto chiarezza. Non ho scaricato dell'Utri, come scrive oggi il Corriere della Sera, e poi a un certo punto ha cercato l'autrice dell'articolo, Sarzanini, credo non sia il solo giornale aver parlato di queste cose, e dice dov'è la Sarzanini, Fiorenza Sarzanini, non la trovo. Oggi ho letto sui giornali che avrei scaricato dell'Utri. Per me dell'Utri è un amico fraterno, una persona per bene. Io non ho scaricato proprio nessuno. Ho solo raccontato ai magistrati, non so che cosa ci abbiamo letto nel mio racconto, come sono andati i fatti. E per scaricare qualcuno bisogna che ci sia qualche cosa. Siccome non c'è niente da scaricare, non c'è niente da attribuire, perché non ci sono responsabilità. Poi su Fini non mi ha tutelato. Brutto gesto, la richiesta di dimissione di Fini, sentite. Mi dispiace che il Presidente della Camera in forma generica non abbia tutelato un suo membro come me, perché durante un interrogatorio durato 9 ore, non era un interrogatorio, i giudici sono stati nei miei confronti corretti. I desideri non invecchiano. E poi su Bocchino, sentite Italo Bocchino. Chi avanza richieste di presunta legalità dovrebbe essere, come dire, ineccepibile, trasparente. Lindo, non accetto certo dall'onorevole Bocchino nulla di quello che dice, perché ricordo a lui che il PDL si è stretto intorno a lui in occasione di un'inchiesta che lo riguardava anche pesante, con una richiesta d'arresto. La vivrai. Va bene, 18:11, e a un certo punto succede una cosa e chiama in causa da Roma Luca Telese. Ciao Luca. Eccomi, Giorgio, il circo oggi. Il circo, non so, lo definisci circo? Beh, ci sono stati dei numeri di veramente acrobatici. Che voto dai a Verdini per la conferenza stampa? Tecnicamente 8, nel senso che è riuscito a, nella posizione in cui era, è riuscito a fare miracoli. Giorgio Stracquadanio, buonasera. Buonasera a loro. Il predellino, fantastico, sì. Deputato del PDL, a un certo punto, mentre una giornalista dell'Unità chiedeva a Verdini di conti, dei passaggi di denaro, adesso non ci dilunghiamo, eccetera, Verdini in maniera... No, ci dilunghiamo invece, Cruciani. No, non ci dilunghiamo, nel senso... No, assolutamente, però insomma se dovessimo... parlare di questa storia dei conti che passano, eccetera, eccetera. Verdini rispondeva a Claudia Fusani, giornalista dell'Unità, dicendo: guardi, che lei non sa cosa significa questo, non sa tecnicamente cosa consistono questi passaggi di denaro, gli incassi, eccetera, eccetera, per conto di chi, gli assegni. No, non faccia casino, Cruciani, faccia il giornalista. No, ma non sto facendo casino, sta perché facendo casino. Ci vorrebbero tre cose. È molto più semplice. La giornalista dell'Unità ha negato. Sì. Che si possono versare soldi sul conto di un altro in assenza della persona, sì. Il che è notoriamente una fesseria. Mm. ha dimostrato un'ignoranza asinina, perché se io voglio versare dei conti sul suo conto corrente, sì, presso la sua banca, basta che io abbia il suo IBAN e non, sì, devo sapere, non deve essere presente lei. Lo posso fare anche su via telematica. Il negare che questa possibilità esista, sì, ho detto nel mio comunicato, sì, è come dire per un cronista sportivo che la rete del calcio serve a pescare il pesce. Dimostra una ignoranza asinina. E quindi una giornalista che fa questo, sì, non è meritevole di stare, di fare la giornalista. Però adesso qui non c'è Claudia Fusani, dunque non le può rispondere sulla domanda. Io ho seguito la domanda della Fusani, a un certo punto mi sono perso. Ma ci sono gli atti, mi, eh? Sono, c'è perso la registrazione, no, la assolutamente. Guardare tutti assieme. No, certo, però il punto secondo me non è la domanda andava bene, non andava bene, era posta male, perché Verdini stava rispondendo a questo. E perché lei a un certo punto si è alzato o è rimasto in piedi, seduto, non lo so, dicendo lei sta sparando un sacco di, cosa ha detto Straguadagni? Cazzate, perché siccome ha reiterato questa affermazione secondo la quale non si possono versare i conti sul, i soldi sul conto di un altro in assenza dell'altro, e se uno ha una spiegazione, una risposta che le dice guardi che si sbaglia perché si può, e questa è un'esperienza comune che chiunque abbia fatto in banca. Ho capito, ma stava rispondendo Verdini però, perché ho capito, ma allora l'insistenza con la quale si dicono fesserie, discredita la conferenza stampa, impedisce agli altri di parlare e fa brandire come un'arma una affermazione che è del tutto falsa. Ho capito, Telesi, è andata così, un attimo solo, Straguadagni, un secondo solo, un secondo. Un punto deontologico, no? No, ma ho capito, un attimo solo, Straguadagni, voglio capire da Telesi se la Fusani stava veramente dicendo delle cazzate come dice Straguadagni o no. Io non sono in grado di giudicarlo e francamente non me ne importa molto. Intanto sono due momenti diversi, perché in questa conferenza stampa circense due predigitatori che sono Straguadagni e Ferrara sono intervenuti in due momenti con delle azioni di disturbo molto efficaci, che però non erano sul pezzo, cioè nel senso che la Fusani stava dicendo va bene, sono arrivati questi soldi, lei ha incassato questi assegni, Verdini ha fatto melina, ha detto no, non li ho incassati. No, perché lei melina? Stava rispondendo, cosa... No, non è che ha fatto melina, no, stava rispondendo. Però, sì, ma il problema non era se gli assegni fossero versati, girati, controfirmati. Il problema è che erano arrivati 200.000 euro. Vabbè, adesso non stiamo qui, diversi. Non stiamo qui a... No, dico, quindi abile Straguadagni no, a fare, perdoni, un intervento apparentemente passionale. Evidentemente, perché la domanda era come mai è arrivata la causa di identità di una persona via... Un attimo, uno per volta, primo. Telese, facciamo finire... Finire di dire questa cosa, vedi come Straguadagni è abilissimo, perché era un momento in cui, diciamo, forse la conferenza stampa aveva messo un po' nell'angolo Verdini e con due trucchi di prestigio. Ma non mi sembrava nell'angolo Verdini, però adesso Luca, io l'ho sentito la conferenza stampa. In difficoltà, vogliamo dire. Ma non era in difficoltà, rispondeva anche in maniera garbata. Allora, però al di là della questione tecnica, però Straguadagno, il punto è uno: a un certo punto la Fusani dice: lei non mi può dire che dico cazzate, eccetera. Era il caso di rivolgersi. Invece io glielo posso dire, perché se dice cazzate, onestà vuole che io le dica che dice cazzate. E lo dico a difesa della professione che viene messa in discussione dagli ignoranti. Però mi scusi, e io non accetto che l'ignoranza faccia breccia nella professione. Ma stavo facendo delle domande su questi passaggi. Un giornalista. Sì, ho capito. E se uno fa domande da ignorante e dice ma scusi, la rete del calcio serve per pescare i pesci, va allontanato da quella conferenza stampa, perché sta dicendo addirittura cazzate. Deve essere allontanato dalla conferenza stampa. Gli ignoranti devono prendere 5 e andare a casa bocciati. La meritocrazia deve entrare, il giornalismo non è imbrattare le carte, tantomeno farsele imbrattare con i servizi segreti, d'accordo? Andiamo da Ferrara tra pochissimo. Andiamo alla questione di Ferrara 18-17 traffico, poi la questione di Ferrara, cosa ha detto Ferrara sulla giornalista dell'Unità Claudia Fusani. Bene, 18:18, 800 24 00 24. Ogni tanto quando sento il traffico mi verrebbe da fare come fece in una mitica puntata della trasmissione del mattino Giuliano Ferrara sul traffico. Non so se ce l'abbiamo, è il pezzo mitico, dato che stavamo parlando di Giuliano Ferrara sul traffico, eccolo. Però vi devo confessare una cosa: le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strada in diretta. Telese, non te la ricordavi questa, Luca? No, non me la ricordavo, però devo dire che le strade in diretta le ho avute anch'io e sono come la morte. Come... Questo era un Ferrara straordinario, con un certo punto. Un capolavoro assoluto, non ne poteva più di continue interruzioni per il traffico. Stava parlando, non mi ricordo con chi, se ne uscì con questa cosa. Però vedi, eccezionale. Voglio allora, che cosa ha fatto Ferrara? Allora, facciamo capire agli ascoltatori. Aspetta, grande simpatia per Straguadagno, però se si mette a fare il primo della classe devo ricordargli che lui non si ricorda che oggi non è intervenuto su Claudia Fusani, ma su un altro giornalista, quando lui ha chiesto di dire No, era su Fusani. È stato Ferrara a interrompere. No, su Fusani, Stava distratto, Telese stava distratto. C'erano troppe belle ragazze. Telese, eri distratto, era solo su Claudia Fusani. Era su Claudia Fusani. Come era no? Pieno di belle ragazze, Telese stava distratto. Eri distratto. Era pieno di dame. Fra l'altro mi devi spiegare chi erano tutte queste dame bianche. Porca miseria, ma lì a Forza Italia. Come mai c'è? Che mette una camicetta rosa, non c'è. Una stava a fianco, una stava proprio a fianco a Straguadagno. Come mai? Per questo probabilmente non ricordo. Bene. No, ma guarda che Telese, in questo caso vicino a Enrico Paoli di Libero, quindi non è che fosse questa grande bellezza. Ecco. In questo caso devo dire che ha ragione Straguadagno, perché a parte che c'è Straguadagno e qui per cui saprà chi si è rivolto, no? Siccome no? Enrico Paoli c'ero io. Che c'era il precedente del mattino, tra l'altro. Straguadagno era proprio sui Carboni Ardenti, è stato veramente un valoroso soldato verdiniano e lui era pronto a mordere tutti, quindi i primi singulti si sono avuti su un intervento di Zunino. Sì, d'accordo, però poi e la frase... ha blandito molto vivacemente, che poi anche Verdini ha insultato. Cioè, tutta la No, Verdini no, io l'ho visto la conferenza stampa, Verdini non ha insultato. Ma dove? No, ma chi ha insultato? Lei non faccia questa domanda. Perché è un insulto questo. Luca... ha detto venite qui a fare le vostre riflessioni, poi se ne era così imbarazzante questa cosa e poi Verdini, vado atto, se ne è scusato subito. Quindi è stato tutto un gran numero di circo che è culminato con Ferrara. Ecco, è culminato con Ferrara. Giuliano Ferrara a un certo punto, non so se abbiamo l'audio, facciamolo sentire. A un certo punto, dopo quello che ha detto Straguadagno alla Fusani, che abbiamo ricordato prima, non dire cazzate, eccetera, eccetera, poi la Fusani ha detto a Straguadagno, no, non dica, non mi può dire, io dico cazzate, beh, insomma, tutta un battibecco di questo tipo, è intervenuto su un'altra domanda della Fusani, sempre su questi conti di Verdini, eccetera, eccetera, su questi passaggi, è intervenuto Giuliano Ferrara. Sentite, si sente da lontano, però qualcosa si riesce a capire. Non fare propaganda politica, soprattutto se sono passati la Repubblica, l'Unità in circostanze tutte da chiarire. Ma come si permette? Ma che non c'entra proprio niente. Questo non c'entra proprio niente. È stato di polizia. La Fusani da lezioni di moralità. Ma io faccio ha delle domande. Ha delle domande. Ha delle domande. Vabbè, questo Giuliano Ferrara se n'è andato, poi Telese, Ferrara che ha fatto? Era seduto, era bello perché la squadretta d'attacco del Foglio c'era, in prima fila era seduto Straguadagno e Ferrara in ma Straguadagno mica è ma del Foglio. Ma non sto mica al Foglio, magari. Non è mica al Foglio Straguadagno. Ma insomma è quel giro. Vabbè, fa il deputato, che c'è? È quel giro. Ma Telese, che hai bevuto oggi? Dai. Chi ti ha offerto l'aperitivo? Nessuno mi ha offerto l'aperitivo, dai, ne abbiamo un. Allora qualcuno te lo offre, stai disidratato. Allora, sono disidratato, però Ferrara era lì e. Io mi permetto di scherzare, siamo tutti amici, colleghi. Figurati. Era in maglia, ci è stato là e se n'è andato passando in mezzo alle telecamere. Non so come sia riuscito a non cadere tutto, un miracolo. Allora, io voglio dire una cosa. Ferrara, secondo me, io ho seguito la cosa, Straguadagno. La Fusani faceva delle domande, saranno pure state domande sbagliate, non lo so, lei dice che domande inesatte. No, partivano da un presupposto di ignoranza. Sì, d'accordo, però, voglio dire, erano domande... Non si accontentava della risposta che d'accordo, le dava la spiegazione. D'accordo, però Verdini era... Se uno chiedesse, ma 2 più 2 fa 5, e lui diceva, no, fa 4, e lui diceva, no, non è vero, fa 5. Tu allora, sei un radicale, uno può non accontentarsi della risposta. Sì, dice Telese, ci si può anche non accontentare delle risposte, uno fa altre domande, tra l'altro... Ma Verdini era calmissimo, Verdini era calmissimo. Ma Cruciani, lei mi può fare mille volte le stesse domande, ma non mi può dire siccome 2 più 2 fa 5, tu devi smettere di dire che fa 4. No, io non ho detto perché questo. C'ho ragione, io se dico che 2 più 2 fa 4. E questo è il teorema. E non lei che dice 2 più 2 fa 5. No, giusto? Ma io ho detto una cosa. Verdini allora, era calmissimo. Che non si possono restare i conti. Se i soldi su un conto corrente, se una persona non è presente al momento del versamento, vuole dire che non ha la minima cognizione. Ma di non era solo questa la domanda, straquadana. La domanda non è solo questa. Se vuole la riprendiamo allora, in onda. Vediamo, perché non riascoltiamo quella parte del. Il problema è perché sono arrivati quei soldi. Ed era giusto chiederlo, Straguadagno, l'avresti chiesto pure tu, era cosa? Giusto chiedere perché sono arrivati quei soldi, poi Verdini può rispondere quello che vuole, cioè può dire, cioè, che era giusto o no fare queste domande? No. Ma scusa, no, sono arrivati un milione di euro, perché sono arrivati quei soldi, la domanda è non potevi versare quei soldi su quel conto, il che è falso. Sì, d'accordo, però il punto non è questo. Perché se Verdini era calmo, no, la domanda era questa. Perché se Verdini era calmo, immobile, rideva, scherzava, rispondeva tranquillamente, lei si è arrabbiata e Ferrara addirittura. Perché Verdini ha un carattere migliore del mio. Nonostante sia sotto l'inchiesta e non si incazza quando sente stronzate. Io invece, che non sono sotto inchiesta, sento una cosa che è falsa nella premessa logica. E siccome sono un cultore della materia, cioè del giornalismo, quando sento qualcuno che è ignorante e si pretende di dire giornalista, io ho un riflesso professionale profondo che mi porta a incazzarmi. Ma tanto è vero che con Terese non mi incazzo mai, perché lui questi passi falsi non li fa mai. E neanche con Cruciani, che è un fior di giornalista, perché lui una domanda sbagliata non l'ha mai fatta in vita adesso sua, perché anzi, coglie sempre il suo interlocutore in fallo. Senta, però, Luca, che cos'è questa storia dei servizi segreti? Spiegamela un po', io non ho capito. Cioè, di Ferrara? No, questa è, diciamo, fa parte, come dire, della vena violenta di Giuliano, che è un tratto del suo carattere. Lui quando prende la brocca. Aggiornamento dovuto naturalmente per un fatto tragico come questo. Vado. Con 2 militari italiani morti vicino a Herat. Pochi minuti prima la Camera aveva approvato la fiducia, 329 sì, 275 no, sulla manovra. Allora, ci fu un episodio, no, che toccò Claudia Fusani, no, tempo fa. Insomma, adesso Giuliano Ferrara voleva dire che Claudia Fusani se n'è andata da Repubblica perché è stata coinvolta nel caso di Polveri, e non è una bella cosa, perché uno sta facendo una domanda e io non interromperei mai Ferrara. Ora penso che Straguadagno in questo è liberale, dovrebbe essere d'accordo con me. Io non interromperei mai Ferrara dicendogli cosa che lui ha raccontato, hai preso i soldi della CIA, perché non c'entra, non è pertinente, però all'uomo gli piace lo spettacolo e via. Straguadagno? No, io devo dire, ho meno voglia di scherzare dopo la notizia che avete dato in diretta, quindi farò semplicemente questa valutazione. Il problema che Ferrara ha richiamato la mancanza di professionalità della giornalista. No, ha detto non può fare lezioni di moralità perché non può fare lezioni perché ma stava appunto facendo delle domande, non lezioni di moralità, però su questo devo dire perché non sta guadagno. Io non ho in particolare simpatia a Claudia Fusani e all'Unità, non ho in particolare simpatia, però devo dire stava facendo delle domande. Ma che noi non ho né simpatia né antipatia. No. Un po' di antipatia ce l'hai, ascoltassimo quella registrazione, io farò un esposto all'ordine per dimostrare che la domanda è stata basata su presupposti di ignoranza ma con pervicacia. Allora c'è tenacia, pervicacia nell'errore, e questo non è ammissibile dal punto di vista professionale. E quindi viene da ricordare altri episodi di mancanza di professionalità, perché è vero che Ferrara ha detto preso i soldi alla CIA, ma qualcuno dovrebbe dimostrare che Ferrara non è un professionista, il che è più difficile. Però guardi, se ci mettiamo a riascoltare le domande che faceva Claudia Fusani adesso, se ci mettiamo a riascoltare le domande, io avevo anche un precedente al Mattino, no, ma con chi? La stessa Fusani a Radio Città Futura, dove le stesse cose erronee dette al Mattino sono state ripetute il pomeriggio. Allora non è che questa è una teoria goebbelsiana, che una bugia ripetuta tante volte diventa una verità. Allora io non posso, cioè ho detto no, però ho questo detto io questo lo posso capire, però Straguadagno, il punto. Ma Verdini lo stava spiegando, Verdini stava dicendo guardi che lei sta sbagliando, i conti sono così, si fa così, sì, si fa esatto. Colà, si fa colà, cioè, lei dice io sono più irruento, lei dice... ha reiterato la domanda, Verdini ha reiterato la risposta e quella lei ha detto non è vero, non è possibile, negando l'evidenza, come dire, non è vero, Giorgio, che il sole sorge a est e tramonta a ovest. Ma invece non è così. Verdini stava facendo melina per entrare in una questione procedurale se l'assegno era stato versato, girato eccetera, e fuggiva dall'unica vera domanda, cioè ma perché cavolo gli ha dati Carboni quei soldi? No, Beh, io chiedo, sì, per, chiedo tu l'hai capito? Cosa. Tu l'hai capito, lui perché Carboni conosce, l'ha spiegato benissimo. Io, ma quello che lui domanda, ha detto, lei lo sa che si possono versare conti, i soldi sul conto corrente di un altro senza che questo sia presente? E lei ha detto non è possibile, questo non si può fare. E siccome questo è un errore marchiano, uno strafalcione grossolano, questo abbiamo discusso. Però, tutto lì. Luca, bisogna perché anche dire. Se discendeva una teoria che era quella per la quale i soldi Verdini li aveva dati o ricevuti per ragioni penalmente rilevanti, e invece erano una normale transazione. Verdini ha spiegato tutto, la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Carboni di una quadra del giorno è stato così chiaro. Telese, sei convinto o no? Telese, sei convinto o no? Ma no, non sono per niente convinto, cioè stando a quello che ha detto Verdini oggi, lui sarebbe una persona socievole e così simpatica che incontra uno sconosciuto faccendiere che lui dice di non conoscere l'esistenza, lo incontra secondo le parole di Verdini a gennaio e neanche 5 mesi dopo quello gli fa arrivare 1 milione di euro attraverso però un prestanome che è l'autista della sua compagna. Questi assegni sono intestati a questa autista, ecco perché le domande che a Straguadagno sembravano speciose. E poi devo dire che queste domande sono più da pubblico ministero che da giornalista, cioè i sospetti sul perché le cose. Vuol dire perché questi soldi sono arrivati e perché sono arrivati in questo modo così strano. Va bene, abbiamo la borsa, torniamo tra qualche istante. Abbiamo la borsa, devo darla per forza, borsa. Bene, Telese, giornata di notizie, hai sentito, no? Brancher condannato. Quello che volevano fare il ministro per salvargli le chiappe. Vabbè, dai, non esagerare. Dai, Straguadagno, se fosse, come dire, e lo è, onesto intellettualmente, se applicasse la stessa ferocia che ha applicato alla Fusani, dovrebbe dire onestamente che Brancher voleva salvarsi dalla condanna. E dunque per questo lo sanno anche i bambini. Per cui per questo l'hanno nominato ministro. Un ministro senza deleghe che voleva salvarsi una condanna. E dici la condanna di oggi è la prova che voleva salvarsi. L'avrà presentito che stava per arrivare, no? Allora, direi di andare da Luigi da Parma. Abbiamo qualche titolo di studio aperto, innanzitutto, studio aperto. Sentite. Pomeriggio di follia a Loreto, un uomo armato entra in una casa e spara all'impazzata, uccide 2 donne, una terza è gravissima. A scatenare il raptus forse la gelosia, l'omicida ancora in fuga, aggiornamenti in diretta. Non mi dimetto, non conosco la P3, mai preso un soldo. Verdini al contrattacco, in una conferenza stampa il coordinatore del PDL respinge le accuse di Chiara. Dell'Utri è un amico, non l'ho scaricato, Fini avrebbe dovuto sostenermi. Baby Escort e Coca, l'inchiesta sulle discoteche del jet set si fa rovente, le testimonianze delle ragazze immagine, che a fine serata si prostituivano ai rampolli della Milano Mene. Tra noi anche minorenni, raccontano i magistrati. Dopo la mozzarella blu, la ricotta rossa. La confezione di formaggio dallo strano colore è stata comprata in un supermercato di Olbia. I NAS hanno sequestrato l'intero lotto. Esami e controlli nell'azienda produttrice. La stagione dell'amore. Allora, siamo sempre con Luca Telese in diretta da Roma. Adesso recuperiamo, se possibile, anche Giorgio Straguadagno, deputato del PDL. È scomparso. Hanno scomparso. Brancher è scomparso. È scomparso. No, Giorgio, è scomparso. Vieni, facciamo parlare. Granata, ieri strepitoso, come sai, ospite qui alla Zanzara. Devo dire personalmente sulla vicenda di Berlusconi, insomma, io ho chiesto a Granato una cosa molto semplice: ma se uno applica il lodo Fini, cioè indagati niente incarichi politici, anche Berlusconi dovrebbe dimettersi secondo la logica finian-granatiana, la nuova logica di Fini. E invece su Berlusconi sentite cosa dice. Su Berlusconi: le vicende di Berlusconi provengono dal suo passato di imprenditore, non c'è un solo procedimento che riguarda Berlusconi nella sua azione di governo, e noi riteniamo che nei confronti di Berlusconi ci sia stata una maggiore attenzione, mi fermo a questo termine, da parte dei giudici. E siccome Berlusconi, a differenza di Verdini, di Cosentino, del sottoscritto, è stato investito attraverso la volontà popolare del governo della nazione, non può essere bloccato da un processo, deve essere posto nelle condizioni di governare e poi di rispondere alla giustizia quando questo periodo di governo sarà finito. Ma sono due cose assolutamente diverse. Telese, che delusione questo passaggio. Beh, un po' di doppiopesismo ce l'abbiamo tutti. Magari se condannano te, io ti difendo, dirò che eri alla Zanzara e quindi non processabile nel periodo in cui conducevi la Zanzara. Devo dire che il garantismo di Fini è... Una volta Fini diceva delle cose che, andandole a ripescare, i giornali di centrodestra o vicini al centrodestra in questi giorni, no, stanno facendo un po' a gara nell'andare a ripescare dichiarazioni di Fini del passato, lo stesso Granata. Io ricordo ancora Granata che difendeva Cuffaro quando era assessore, nonostante Cuffaro fosse plurindagato, indagato per mafia, Granata lo difendeva. Tu non te lo ricordi questo, eh? Però per reati precedenti al suo mandato, quindi... C'è sempre una logica. Allora, con chi eravamo? Resta con noi Luca Teresi, 1839, Luigi da Parma. Sì, buonasera. Dica. Io volevo dire, ma la teoria di straguadagno è corretta, nel senso che gli assegni si possono versare anche in assenza dell'interessato, però bisogna conoscerne il conto corrente e questo sarebbe importante sapere come mai questo straordinario beneficiario avesse il suo conto corrente, perlomeno, no? Quindi a me non è mai capitato che nessuno regalasse dei soldi e se trovassi dei soldi mi chiederai come mai. Detto questo, ma guardi che Verdini non ha mai detto di aver ricevuto un regalo, eccetera, era un finanziamento per il giornale, no? Sì, sì, ma d'accordo, però visto che mi sembra di dire anche che Carboni, voglio dire, a parte i bambini di 10 anni, lo conoscono tutti, quello che ha fatto in passato, è stato anche condannato per il caso Banco Ambrosiano a 8 anni, è stato arrestato, questa è la terza volta, è legato alla banda della Magliana, alla mafia, all'omicidio Calvi, o comunque è una persona molto discutibile. Ma questo è un altro discorso, però, questo è un altro discorso, no, è un allora, discorso allora che riguarda la politica, chiedo. Questo è un discorso che riguarda la politica, però. No, non è vero, perché se io sono un dirigente politico, sì, ed essendo tale, essendo tale dovrei evitare di avere certe frequentazioni. È quello che sto dicendo io, Luigi, non è una questione, esatto. I passaggi di soldi sono un altro discorso rispetto all'opportunità politica di avere a che fare con Carboni. Milena, provincia di Ravenna, intanto leggo che l'ordine dei giornalisti, non so che cosa, se la prende con straguadagno per le espressioni irriguardose nei confronti di Claudia Fusani e forse anche nei confronti di Ferrara. Milena, provincia di Ravenna. Milena, buonasera. Beh, buonasera, provincia di Ravenna, no, sono in macchina. È in macchina in provincia di Ravenna. Vabbè, in questi ultimi giorni ricevo informazioni sbagliate, non si capisce per quale motivo. Penso che me lo fanno apposta. Di legale, no, in effetti è stata detta una bestialità, mi scappa da ridere. Comunque nel senso che è vero, legalmente non si può fare un versamento sul conto di un altro, a meno che non ci siamo uniti in una delega, e ben diverso è fare un bonifico, ma se tu vuoi fare proprio un versamento, a meno che non sia connivente il direttore, il cassiere, la filiale in sé per sé, non si può, la legge antiriciclaggio in materia è chiara, non l'ho fatta. Però, io mi scusi, Milena, io adesso veramente, nonostante l'insistenza di straguadagno prima, entrare nel merito della domanda di Claudio Fusani mi sembra una cosa, un giornalista può dire anche, Telesi aiutami su questo, perché può dire anche, facendo delle domande, delle castronerie pazzesche, ha il diritto di... No, allora, ma lasci perdere, adesso non lo so e ripeto, se ci mettiamo qui ad analizzare la domanda che una giornalista ha fatto durante la conferenza stampa, mi cadono le braccia e andiamo avanti per ore. Bene. A me possono cadere le braccia, però che venga data una risposta non consona da chi? Ho capito, straguadagno pensa delle cose, secondo lei invece la domanda era corretta. No, non è secondo me, è proprio la legge antiriciclaggio. Ha ragione la nostra ascoltatrice. Cioè, proprio... Perché ha ragione? Scusami, Luca. Allora, straguadagno è un genio, in un momento in cui comunque si stava ingarbugliando questa domanda sul fatto se fosse versato, se fosse girato, ha, come dire, offerto una diversione, un'uscita, è stato molto abile dialetticamente, ma il punto, ha ragione la nostra ascoltatrice e anche l'ascoltatore precedente, cioè perché questi soldi, se Verdini dice, come dice anche oggi, che ha conosciuto Carboni solo 3 mesi prima, perché Carboni improvvisamente gli vuole dare 2.800.000 euro e ma, 800 ma non era questa la domanda, ma la domanda non era questa. Ma era questa. Beh, no, la domanda è questa. La domanda diretta sarebbe stata: perché Carboni le ha dato questi soldi qui? Ma mica la Fusani è scema. La Fusani ha iniziato a dire: perché lei ha ricevuto 16 assegni? Allora quello ha detto: non li ho ricevuti. Perché li ha versati? Non li ho versati. Se lei non sa, non si possono versare. Allora gli ha detto: li ha girati, stornati. È iniziato, come dire, era una melina difensiva. Non era quello il nodo. Ma a me, sentiamo una parte. Comunque, se non vogliamo entrare anche nel merito, appunto, del discorso, cioè per sé, guarda caso, comunque la banca è stata commissariata. Commissariare una banca, cioè non è roba di tutti i giorni. No, però quello è un altro discorso rispetto alla commissione. Bene, ma certe operazioni, se allora risultano possibili, da quello che si è sentito, giustamente... Però Milena, il discorso è un altro, secondo me. Lasciamo da parte l'aspetto tecnico della domanda fatta, la risposta di Verdini, Stracquadani, eccetera. Non sarà... Sì, d'accordo, però il punto è un altro. Un giornalista, quando è in una conferenza stampa, secondo me, ha il diritto di fare delle domande anche dicendo delle castronerie. Mettiamo pure che non le abbia dette la Fusani, non lo so, non mi interessa. Secondo me Verdini stava rispondendo in maniera garbata, magari era un po' spazientito a un certo punto, ma stava rispondendo in maniera garbata. A un certo punto è intervenuto Stracquadani nella maniera in cui abbiamo sentito, e poi successivamente Giuliano Ferrara, perché secondo Ferrara sono metodi di inquisizione, lo stato di polizia, eccetera eccetera. Questo è il punto fondamentale. Hanno sbagliato Stracquadani e Ferrara a reagire in questo modo oppure no? Ma diciamo che tutti gli eccessi, secondo me, non portano a nulla di buono, e si sta vedendo, no? Nel senso che è vero, un giornalista ti può dire anche delle castronerie, se rimangono sempre nei limiti del lecito, capiamoci bene, che sia sempre del lecito, e cortesia è rispondere. Interventi così forti non fanno altro che inasprire gli animi e non portano a nulla. Perché tanto dopo uno risponde, come appunto sta guardando, in una certa maniera, dicendo anche delle cose inesatte, così chi ascolta non riesce più a capirci niente, perché comunque ha un'idea deviata di quelle che sono le regole, perché comunque delle regole ci sono da rispettare in tutti i campi. Si assiste solo a uno show. Sì, però lei parte, scusi Milena, lei facendo questo ragionamento parte dal presupposto che Verdini abbia violato delle regole per quello che riguarda i versamenti, o comunque ci sia qualcosa di poco chiaro. In realtà questo non lo sappiamo. Poco chiaro non lo sappiamo, esatto. Però sta di fatto che io parto dal punto di vista che se viene commissariata una banca... Ma questo non ha niente a che fare però con quegli assegni lì, non c'entra niente. Come donna di legge dico, bene, stiamo a vedere. Cioè non parto dal presupposto che sia sbagliata l'azione o abbiano ragione... Sì, però io voglio chiedere a Telese una cosa. Allora, la domanda, Luca, è questa: non può passare, da questo punto di vista, secondo me Verdini ha ragione, non può passare il principio, la cosa riguarda Caliendo, lo stesso Verdini, Cosentino, un altro discorso, se vogliamo, non può passare il principio, io su questo, secondo me non bisogna essere di sinistra o di destra su questo, non può passare il principio che se un magistrato emette un avviso di garanzia, cioè tornare indietro a 92, 93, 94, se un magistrato emette un avviso di garanzia, un dirigente politico si deve dimettere. Questa è pura follia o no? Ti prego, devi essere d'accordo. D'accordo su questo? No, sono d'accordo, però c'è un però molto importante. Il problema è che quella domanda, che non era una domanda tecnica e che partiva dal dubbio della nostra ascoltatrice, vero, sulla legge antiriciclaggio, era molto semplice nella sua sostanza. Perché arrivano 16 assegni circolari intestati a uno che fa l'autista della moglie di Carboni, e Verdini gli gira sul conto usando una fotocopia del documento di questa persona? È un'operazione strana o no? No, la fotocopia del documento lui ha spiegato benissimo che la fotocopia del documento viene spesso chiesta quando uno va in banca, era una forma di precauzione. Ma scusami, però non è strano che Carboni incontra Verdini e vuole investire in una società in perdita, l'ho detto lo stesso Verdini, che è il giornale. Sì, ma questo riguarda un altro discorso però. Prima, e poi perché anziché bonificare i soldi direttamente usa il nome di un autista factotum della moglie? Non è un'operazione chiara. Ma sì, ma non sarà, magari non sarà un'operazione chiara, ma questa è una domanda, vuol dire, che e riguarda le indagini. Domanda, no? No, ma io non sto poi dicendo uno, che... come dici tu, può dare qualunque risposta, però la domanda non è campata per aria. La domanda non era questa, era presa alla lontana. Cioè, comunque, insomma, la domanda non era diretta. Lei ha ricevuto dei soldi da Carboni perché eccetera, eccetera, eccetera. La domanda era tutta, insomma, si ammantava di un discorso tecnico per arrivare alla conclusione o comunque alla spiegazione che dai tu. Eccoci qui, allora, siccome ce lo chiedono, mettiamo sta domanda, che noia, come dice Ferrara, basta. Comunque, mettiamola la domanda che Claudia Fusani, giornalista dell'Unità, ha fatto a Denis Verdini, che poi ha provocato la reazione di Giuliano Ferrara, la reazione di Giorgio Stracquadanio. Mettiamola, una cosa tecnica, una noia mortale, come direbbe Ferrara. Andiamo. Scusi, arriva un fax con la carta d'identità di questo signor Tomasetti. Perché è necessario un fax con i dati di questo signore, se è così semplice come lei sta dicendo? Questa questione che vi fa così impazzire sta, come dire, negli atti, ci sono le cose, cioè non è che si faccia le questioni in banca, sono tutte registrate. E comunque, perché siccome io so perché lei chiede... Scusi, le cazzate le dice lei e io no, quindi si tenga le parole che sta usando, capito? Chiaro questo? Se a fare... ma scusi, al giornale, ma perché dice questo? Ma perché dice questo? Scusi, sono lì, sono versati nel giornale della Toscana. Insomma, Teresa, a me Verdini mi sembrava molto tranquillo rispondendo a queste cose. Cioè, tra l'altro, ha pure chiesto scusa alla Fusani, ha detto no, mi scusi per quello che è successo. Diceva Stracquadanio di stare calmo. La conferenza stampa è durata un'ora e mezza. Perché è stata lunga, quindi era un fuoco di fila anche a cui Verdini si è sottoposto, e quindi questo era il climax, il punto più alto della conferenza stampa. Per questo gli animi erano così esacerbati. Però, come hai visto, la Fusani, noi abbiamo anche tagliato la prima parte mandandola, però la Fusani partiva dal fax perché il problema era e dal problema del si può versare o no è perché cioè era un prestanome, ecco, questa era la domanda vera, sì, non è da poco. Lui diceva che non si tratta invece di prestanome, che è tutto regolare, è tutto negli atti. Sì, ma comunque, ripeto, secondo me alla fine tra i due, cioè tra gli interlocutori veri, cioè chi fa la domanda e Verdini, c'era anche una certa... No, non c'era credine. Poi c'è stato l'intervento di Stracquadanio e di Ferrara, cioè quasi all'improvviso, non so come dire, o sbaglio? Secondo me sono stati, loro sono veramente due amici, hanno fatto il pacchetto di mischia, cioè in un momento in cui la temperatura stava surriscaldando e si finiva in un angolo, ma non perché magari Verdini fosse necessariamente in difficoltà, ma perché il fuoco di fila era molto forte, loro l'hanno buttata in caciara splendidamente dal loro punto di vista. Paola da Modena, buonasera. Buonasera. Volevo intervenire dicendo questo, che oggi abbiamo assistito all'ennesimo spettacolo circense, che ormai questi politici ci danno continuamente. Ma che fa? Mi copia Telese sullo spettacolo circense? No, io non copio Telese, non copio nessuno. No, sto scherzando, sto scherzando. Come la penso io. Sono certa che lei la penserà diversamente. No, veramente, io la penso in maniera diversa, nel senso che non c'è stato nessuno spettacolo. Lo spettacolo circense è durato 10 minuti. Di questi spettacoli. Sì, Paola, qui non c'è stato nessuno spettacolo, c'è stata una conferenza stampa, e poi all'interno di una conferenza stampa ci sono stati due signori che si sono alzati e hanno detto delle cose contro una giornalista. Punto. Che lei voglio ascoltare o no? No, ma quale spettacolo circense? Di cosa sta parlando? Quale spettacolo? Lo spettacolo circense che ormai questi politici fanno ogni giorno, e siamo stanchi di ascoltarli. E poi un'altra cosa, ma che significa questa cosa populista, no? Siamo stanchi, fanno spettacoli ogni giorno. Verdini ha fatto una conferenza stampa per spiegare qual è la sua posizione sulle inchieste. Di quale spettacolo circense sta parlando? Stracquadanio Ferrara, a mio parere, sono stati invitati apposta per intervenire nei momenti più cruciali. Vabbè, questo è un altro discorso. Quando il signor Verdini si sentiva in imbarazzo, allora intervenivano. Secondo me non è così. Stracquadanio. Io dico la mia opinione. Sì, certo, infatti io le sto dicendo la mia invece. Stracquadanio e Ferrara sono intervenuti perché gli giravano le scatole e perché sono molto amici di Verdini. Lei la pensa così, io la penso in modo diverso. E infatti io la rispetto. Il mio parere. E infatti lei lo sta esprimendo. La ringrazio di avermi ascoltato. Grazie a lei di averci chiamato. Berlusconi sta parlando dopo la morte dei soldati italiani, in questo momento in diretta a Roma. Sentiamo un attimo da Sky TG24. Professionalità che esprime il massimo della professionalità, dell'efficienza e della simpatia E quindi era logico che quando... Va bene, Marco da Reggio Emilia, buonasera, dica. Buonasera, volevo fare un commento su quello che sta avvenendo all'interno del Popolo della Libertà. Tra l'altro io sono anche stato un simpatizzante. E credo che Verdini, quando sostiene che Marcello Dell'Utri è una persona per bene, dia una misura di come lui è abituato a giudicare le persone. Non dimentichiamo che Dell'Utri è condannato per rapporti con la mafia. Però mi scusi Marco, non ho capito. Verdini conosce Dell'Utri, ha un rapporto molto stretto con Dell'Utri, perché sulla base di una sentenza che non è ancora definitiva, ma anche sulla base di una sentenza definitiva, dovrebbe dire Dell'Utri non è una persona per bene? No, me lo spieghi questa cosa qua. Per il rispetto della legge, forse lei ha dimenticato. No, ma è un altro discorso. Un paese civile. Siamo in un paese civile ancora, non so per quanto. Marco, il punto è un altro, io non ho detto che Dell'Utri è una persona... Nel giudicare le persone, la legge ha un valore, forse sì. le persone lo stanno dimenticando, ma la base della convivenza civile sì. è attribuire alla legge un valore benissimo, sacro. Benissimo Marco, allora le faccio, rivolgo a Telese questa domanda. Luca, se io fossi condannato in tribunale, no? Fossi condannato sì, in tribunale per un certo. delitto grave, sto parlando con Telese, sei ancora collegato. Luca, se io fossi condannato, tu penseresti di me che non sono una persona per bene? Però se gridassi anche che mancano un eroe, qualche dubbio verrebbe. No, dai, adesso... Diciamo che metto la mano sul fuoco per i tuoi rapporti con la mafia, perché so che tu hai rapporti più stretti con l'Andrangheta e con la Sacra Corona. Però se poi gridassi che mancano eroe, cioè uno che è morto agli arresti domiciliari, qualche dubbio mi verrebbe. Ho capito, mi verrebbe qualche dubbio. Però Verdini quando dice che Dell'Utri è una persona per bene, adesso non Giuseppe, so in che contesto. Non lo può dire, secondo te? Non lo sto difendendo questo. È un problema proprio civile. Ma no, ho capito, ma Verdini che è amico di Dell'Utri, perché dovrebbe dire che Verdini, che Dell'Utri è un farabutto? Scusami, perché lo dovrebbe dire? Allora è un'altra questione, siamo su due piani diversi, capite? Non sto dicendo che Dell'Utri è il meglio del meglio, che Dell'Utri è il miglior politico del mondo. Verdini è amico di Dell'Utri, ci collabora insieme, perché dovrebbe dire che è un farabutto? O dovrebbe dire che non è una persona per bene? Spiegamelo concettualmente, perché dovrebbe dirlo? E allora forse questo gruppo di amicizie in cui c'è l'ex biduista, il faccendiere e il condannato per mafia non è un gruppo simpatico. Questo è un altro discorso, però abbiamo il giornale radio. Marco resti con me 800 24 00 24, giornale radio, torniamo subito dopo. Eccoci qui alle 19.18, 800 24 00 24, è in corso ancora la conferenza stampa di Berlusconi alla conferenza degli ambasciatori. Berlusconi tra l'altro ha detto di nuovo che le fiction sulla mafia danneggiano l'immagine dell'Italia nel mondo, e poi ha detto che la mafia nei prossimi 3 anni verrà sconfitta. Un po' contraddittorio qui, perché ha detto la mafia danneggia l'immagine dell'Italia nel mondo e dunque non la sconfiggeremo nei prossimi 3 anni. Va bene, ma sentiamo i titoli del TG3. Due militari italiani sono morti in Afghanistan investiti dall'esplosione di un ordigno artigianale a 20 km da Herat. Verdini, non mi dimetto, la P3 non esiste, indagini pericolose per la democrazia, non ho scaricato Dell'Utri, attacca Fini, mi doveva tutelare. I finiani, ora Verdini si dimette, il PDL lo difende, contro di lui un teorema assurdo, Berlusconi e Fini, ognuno per la sua strada, dice Bossi. Fiducia sulla manovra, Bersani, berlusconismo finito, ora la transizione, la maggioranza si è responsabile, PDL non accettiamo lezioni. Inchiesta Anton Veneta, l'ex ministro Aldo Brancher condannato a 2 anni di reclusione al processo con rito abbreviato. Vertenza Fiat, Marchionne non esclude la disdetta del contratto ed avverte i sindacati, senza un sì convinto meno investimenti. Plaza de Toros, ultimo atto, Hemingway la rese immortale, la Catalogna l'ha messa al bando, dal 2012 corrida vietata nella regione autonoma. Era il fiore all'occhiello tra le case di moda italiane, poi il tramonto, Burani padre e figlio arrestati per bancarotta fraudolenta. Bene, 19:20, ancora notizie dal Partito dell'Amore. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai. Beh, direi ancora Verdini e sentiamolo su Dell'Utri. Oggi ho letto sui giornali che avrei scaricato Dell'Utri. Per me Dell'Utri è un amico fraterno, una persona per bene. Io non ho scaricato proprio nessuno. Ho solo raccontato a magistrati, non so che cosa ci abbiamo letto nel mio racconto, come sono andati i fatti. Viene va. Verdini, non mi dimetto. Ho detto che non so di che cosa si parla e non mi posso certo dimettere per una cosa della quale non so di che cosa si parla, perché per me la P3 non esiste al mondo. Non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo. Ieri alla Zanzara Granata, Fabio Granata, PDL, Finiano, aveva detto dimissioni di Verdini. Sentite, c'è una rottura molto netta su questo. Costituzionalmente prevale il diritto a far valere la propria presunzione di innocenza, ma politicamente l'opportunità è quella delle dimissioni. È chiaro che non può avere più l'autorità per guidare un partito. La stagione dell'amore tornerà con le paure, le scommesse. Questa volta eravamo con Marco da Reggio Emilia. Ha sentito Marco? Le ho fatto riascoltare il passaggio di Verdini su Dell'Utri, che dice una persona per bene. Qual è il punto? Lo vuole ripetere a chi ci sta ascoltando? Io penso che essere amici fraterni di una persona condannata per concorso esterno alla mafia, insomma, che è comunque in rapporti con la mafia, credo che sia vergognoso. Mi scusi Marco, abbia pazienza. Sì. Io però continuo a insistere su questo. Se Verdini è amico fraterno di Dell'Utri e pensa che sia una persona per bene e comunque Dell'Utri si professa innocente, ma qual è il problema, il suo problema? Non ho capito. C'è un grosso problema. E quale sarebbe il problema? Mi spieghi? Io lo spiego. Cioè, secondo lei Dell'Utri che si professa innocente e non è stato condannato in via definitiva dovrebbe essere abbandonato da tutti i suoi amici, perché altrimenti gli amici diventano dei paria o sono da considerare delle persone disoneste perché continuano a essere amici. Non ho capito, Marco, mi spieghi. Non è questo il problema. Non lei sta dicendo questo? Sì, va bene, d'accordo. Arrivo al punto. Io ritengo che se un mio amico fraterno commette un reato e il tribunale lo condanna per questo reato, questo mio amico fraterno o si riconosce colpevole ed è da corsa a un'espiazione della propria colpa, a una riparazione della propria colpa. Ma Dell'Utri pensa di essere innocente, Marco, pensa di essere innocente, non è stato condannato in via definitiva. Perché lei contesta questa cosa? Contesta il fatto che Verdini abbia professato la sua amicizia e dica che Dell'Utri è una persona per bene? Non capisco perché. Perché ritengo che sia estremamente pericoloso per un politico mantenere questo tipo di amicizie. Credo che sia inopportuno in un paese con i morti di mafia che abbiamo, con la gravità della nostra storia sociale politica, mantenere delle collusioni, dei rapporti con persone. Proprio un politico deve essere cristallino da questo punto di vista, non può mantenere dei rapporti con delle persone. Ho capito. Che contemporaneamente conservare il suo ruolo politico. Se il coordinatore del più grosso partito italiano ha dei rapporti con una persona. Ma ce li hanno tutti, è in Parlamento Dell'Utri, parla con tutti ogni giorno, Marco. Appunto, cosa dovrebbe fare? In un paese civile non dovrebbe stare in Parlamento, perché noi diciamo tanto di lottare contro la mafia, di fare terra bruciata intorno a loro, e poi uno che è condannato, non in via definitiva, d'accordo, ma su due livelli di giudizio, continua a stare in Parlamento, continua ad avere dei rapporti come se fosse appunto una persona per bene. Ho capito, io credo, Marco, che la battaglia di Fini sia una battaglia eroica. Un'altra cosa, mi trovo fuori luogo la sua ironia sul fatto che Fini un tempo la pensasse diversamente. Se anche fosse vero questo, è nobile da parte sua cambiare idea e riconoscere che la legalità in Italia è un problema prioritario, fondamentale, se vogliamo rimanere una società civile, altrimenti rassegniamoci a diventare una società sudamericana, insomma. Questa è la mia opinione. Va bene, grazie. Grazie Marco, la ringrazio. Valerio, provincia di Milano. Luciani, io intervengo sullo stesso argomento dell'ascoltatore precedente. Più che altro stigmatizzo la sua affermazione precedente, cioè che anche se Dell'Utri venisse condannato in via definitiva, Verdini, che è suo amico, dovrebbe continuare a dire è una brava persona. No, però questo, mi scusi, ci sono dall'oggettività. No, ma ci sono, io lo dico su un altro piano, Valerio, ci sono fior di condannati i quali si professano innocenti. Ma guardi, a San Vittore, sbagliando o non sbagliando, tutti le dicono, ma che c'entra che San Vittore? Lasci perdere questi, chiedere, questi argomenti, Valerio. Colpevole, e tutti le diranno innocente. Non è vero, a parte che non è così, Valerio, a parte che non è così. Ma comunque siamo su due piani diversi. Io sto dicendo, Verdini può continuare a considerare Dell'Utri una brava persona, anche Verdini, ho detto, può continuare a considerare Dell'Utri una brava persona, una persona per bene, come ha detto oggi in conferenza stampa, anche se Dell'Utri fosse condannato in via definitiva. Non ci sarebbe nulla di strano. C'è un sacco di gente che considera amici condannati in via definitiva delle brave persone, perché queste persone si professano innocenti. Ha capito o no? Mi spiega cosa vuol dire delinquente sul vocabolario italiano, non nel senso di oltraggio. Ma delinquente cosa vuol dire? Colui che delinque, giusto? Sì, ma questo lo possiamo dire io e lei. Se viene condannato è colui che delinque. Ho capito, ma se questa persona qua delinque è una brava persona, può essere, secondo lei? Sì, ma non c'entra niente. Stiamo parlando di un altro piano. Questa persona qui si professa innocente, continua a considerarsi innocente. Gli amici, ma che cosa c'entra San Vittore? Gli amici possono. Il marito che cornifica la moglie, che dice: sì, è vero, ti ho fatto le corna, ma dov'è? Ma dove lo vede lei? Lei fa, Valerio, se un suo amico venisse condannato. Ci sono genitori che hanno denunciato, Valerio, i figli, se un suo amico, genitori che denunciano i figli. Vabbè, questo, perché sono convinti che i figli siano colpevoli. Appunto, sono evidentemente Verdini. Se viene condannato in Cassazione, nessuno è convinto che sia colpevole. No, ci sono questo è il modo di riconoscere l'autorità della c'entra? Legge in Italia. Valerio, la Cassazione dice colpevole, ma non, e questo dice no, è vero, è bravo, è un santo uomo. Fa anche la beneficenza. Va bene, non ci intendiamo. No, non ci intendiamo perché lei vuole sostenere una posizione insostenibile. No, io non sto sostenendo delinquente questo. Delinquente è colui che delinque. Se io vengo condannato in Cassazione, sono un delinquente. Vabbè. Se poi lei dice un delinquente, bravo, può applauso, essere una brava persona. Bravo, applauso. Non ho detto questo, una brava persona in senso oggettivo, ho detto, no, in senso è mio amico. Cioè, se io fossi io lo considero una brava persona perché quella persona. Il mio amico, guardi, diceva, ma una brava persona, andavamo a giocare a biliardo tutte le sere, ma non ho è mangiato solo per 18 persone, però va bene, non ci siamo una brava persona, non ci siamo capiti, per il mio amico non ci siamo capiti vabbè. Ma mi sa che non l'hanno capito in tanti, vabbè, pazienza, forse pazienza. Non ha capito lei la portata di quello che ha detto, probabilmente può darsi. Se parliamo del fatto di condannato in terzo grado anziché in secondo, possiamo essere d'accordo, ma una volta che la sentenza è passata in giudicato in Cassazione, allora, ed è colpevole, quello non può essere una brava persona, uno che fiancheggia la mafia. È una brava persona che fiancheggia la mafia. Ma io le detto brave che persone brava persona le intendo in un modo io, diverso. Anch'io. E allora, se io dico questo, ciò non toglie che i suoi amici, ciò non toglie che i suoi oggettività, ma certo, ciò non toglie che i suoi amici lo possano considerare. No, ma i suoi amici della mia squadra. È questo che conta, non è la giustizia che dice è un delinquente, ma giochiamo a bar insieme a calcetto. Ma io non allora sto dicendo, bravo. Ma guardi, mi scusi, ma io non sto. Dovremmo andare oltre. Va bene, andiamo oltre, infatti andiamo a sentire la borsa. La ringrazio, Valerio. Bene, siamo qui, 19:33, 800 24 00 24. Giancarlo, provincia di Monza, buonasera. Buonasera, Cruciani, buonasera. Dica. Senta, lei, io sono assolutamente d'accordo con i due ascoltatori che mi hanno preceduto. Sì. Lei difende l'indifendibile. Io non sto difendendo nessuno, Giancarlo. No, lei sta difendendo l'indifendibile. Ma chi sto allora, difendendo? Mi scusi. Ma chi sto difendendo, Giancarlo? Io le faccio solo l'elenco. Allora, Dell'Utri, ma chi sta difendendo Dell'Utri? Ma chi sta Verdini, difendendo? Ma che dice? Ma che dice? Ma che dice Giancarlo? Ma è possibile continuare? Ma cosa sta dicendo? Sta gente? Ma chi come sta difendendo? Possibile? Ma io non sto difendendo nessuno, lei non ha capito nulla. Allora, io sono d'accordo con lei sul fatto che Dell'Utri può essere la persona più onesta di questo mondo. Però quando uno è toccato come è stato toccato Dell'Utri e anche gli altri, Scajola, tanto per dirne un altro. Allora? Che, ecco, si deve togliere dalla politica. Ma questo è un altro discorso. Si difenda come vuole, Giancarlo, si come vuole. Giancarlo, è un altro discorso. Ma non è possibile che lei difenda. Ma io non sto difendendo nessuno, lei non ha capito nulla, Giancarlo. Non ha capito nulla. No, lei non ha capito niente. Lei non ha capito niente. Lei non ha capito niente. Non ha capito nulla nemmeno loro. No, ma stiamo parlando di altre cose. Io non sto difendendo Dell'Utri, non sto difendendo Verdini, non c'è bisogno che io difenda nessuno. Ma come no? No, il discorso è partito da una frase. Il discorso, Giancarlo, il discorso è nato da una frase di Verdini oggi in conferenza stampa, che adesso facciamo riascoltare con calma, facciamo riascoltare. No, scusi, volevo solo dirle ancora una cosa. No, mi dica, aspetta, riascoltiamo questa frase, perché tutto parte da questo, inutile che lei dice io difendo questo, difendo quest'altro. Facciamo riascoltare questa bella. La finisca di dire buffonate, un attimo, partiamo. Di Pietro si è dimesso. Ma che c'entra di Pietro? Sentiamo Verdini poi. Si è dimesso diciamo, di Pietro per una sciocchezza. Non dica sciocchezze lei, dica. Oggi ho letto sui giornali che avrei scaricato Dell'Utri. Per me Dell'Utri è un amico fraterno, una persona per bene, io non ho scaricato proprio nessuno, ho solo raccontato al magistrato, non so che cosa ci abbiamo letto nel mio racconto. Allora, la frase è questa, tutto è partito da questa frase qui, un ascoltatore chiama dicendo Verdini non si può permettere di dire che Dell'Utri è una persona per bene. Io ho detto, guardi, io non so se Dell'Utri sia una persona per bene o no, non do giudizi da questo punto di vista. Non li darei nemmeno se fosse condannato in via definitiva, perché la questione di persona per bene non attiene solamente alla sfera giudiziaria delle condanne, è un'altra questione. Non capisco perché ci siamo fino a così ricostruiamo tutto. Quell'ascoltatore dice no, siccome è stato condannato per mafia, Verdini, che ha un ruolo istituzionale, ha un ruolo nel partito, non si può permettere di dire una cosa di questo tipo. Io mi sono permesso di ribattere questo ascoltatore, guardi, non è così. Verdini evidentemente conosce Dell'Utri, che si professa innocente, pensa che Dell'Utri sia innocente o comunque lo considera una persona per bene, non vedo qual è il punto. Di questo si sta parlando, Giancarlo Dunchi, non ho difeso né Dell'Utri né Verdini, stiamo parlando di questa frase qui, è chiaro o no? No, è chiarissimo. E allora io non sto difendendo nessuno, Giancarlo, lei è partito dal presupposto, ha chiamato dicendo lei difende Dell'Utri, la combriccola, ma di che sta parlando? Ascolti, Crociani, lei ha il potere in mano, per cui quando uno sta spiegando una cosa le toglie la parola e va avanti. Ma io non sto togliendo la parola, lei è ancora in linea. Ma lei è ancora in linea con me, Giancarlo, quale toglie la parola? Lei sta qui. Come, scusi? Ma lei è qui collegato, quale parola tolta? Di che sta parlando? No, allora... sto parlando di quello che sto parlando. E allora mi dica, sto parlando di quello che ha parlato lei prima. Allora, per cose molto, molto, molto meno pesanti, lei ha irriso personaggi dalla parte opposta. Le stavo dicendo che... allora l'elenco io l'ho già fatto, Cosentino, Franchea, Scajola, Verdini, ma chi lo fa questo, a chi lo fa questo elenco, a chi lo come sta facendo, a chi lo fa, ma come chi no lo ma fa? A chi lo sta facendo questo fa? A chi lo sta ma facendo scusi, questo ma i giornali elenco? Lei li legge, no? Perché no, ma a chi lo sta facendo questo elenco, Giancarlo, voglio capire questo elenco a cosa serve. Lei sta facendo questo elenco per dire cosa? Sono tutte persone per bene, fino a prova ma non lo so, no? Se sono per bene o no, non lo so, non ho idea, Giancarlo, non lo so. Ok, no, allora così va meglio. Cioè, non so se sono persone per bene, benissimo. Allora, lei come lo giudica una persona, studio... se è una persona per bene o no? Come la giudica? No, partiamo da questo presupposto. Studi, allora, tutta sta gente che è stata toccata dalla magistratura, addirittura qualcuno toccata dalla magistratura, il criterio è toccata qualcuno... dalla magistratura. Ma scusi, toccata, ma come, come nelle gare di Fioretto, è stato toccato. Condannato oggi o no? Verdini è stato condannato no, oggi non è stato no? Condannato, è Branchero. No? Due anni, ma scusi, Giancarlo, senta, vada a rileggersi le notizie, era Branchero, la ringrazio. Davide, provincia di Venezia, buonasera. Buonasera, dica. Sì, ha ragione, è stato condannato a 2 anni Brancher, esatto. Innanzitutto. Poi una seconda cosa, sia Verdini che Dell'Utri sono stati sentiti in questi giorni dagli stessi magistrati per la stessa questione. Sì. Quindi cosa pretende che dica Verdini di Dell'Utri? Ma non lo so. Dice che è una brava persona. Dice quello che vuole dire. No, ma che cosa vuol dire? Siccome i giornali dire, questa mattina hanno titolato, Davide. Lasci stare un attimo. No, lasci stare Verdini, lei. Siccome Verdini e Dell'Utri sono stati sentiti, Davide, per Davide, le stesse questioni. Sì, ma d'accordo. No, non si sentirà mai due fratelli o amici fraterni che sentiti per le stesse questioni, non parliamo di reati, non dico che sono colpevoli, che si sputtanano a vicenda. Non succederà mai, e ci sono nella mafia, però mi scusi, fratelli, ben fratelli ci di sangue, sono nella, che invece hanno ci sono nella, ammazzato e anche tanto, no? Dunque, cosa pretende che dica Verdini? No, scusi, Davide, gli occhi un po' anche lei. Davide, lei sta parlando di altre cose. Il punto è uno solo. No, io non sto parlando di altre cose. No, sta parlando lei di altre cose. Gira la frittata. Ma quale frittata, Davide? Allora, sì, partiamo la frittata la gira lei. Ma lasci perdere la frittata, che fra poco chiamiamo Bigazzi. Chiamiamo Bigazzi. Voglio sentire Bigazzi per parlare di cucina. Va bene a dire che è una brava persona. Apra gli occhi. Chiamatemi Bigazzi. Davide. Non frequenti. Non c'è Telese. Allora, Davide. Peccato. Non c'è Telese perché sta andando in trasmissione. Non parlare anche con lui. Lo so, ma non può venire ogni sera. Davide. Bene lo frequenta già. Ma tanto, io lo frequento parecchio, per cui allora apra Davide, gli occhi, ma apra gli occhi, lasci perdere. Allora, lasci Davide, la questione è questa, il Corriere della Sera questa mattina e anche altri giornali che cosa hanno scritto? Hanno scritto Verdini scarica Dell'Utri. Giusto? O sbaglio? No, va bene. Ok, d'accordo. Dunque, la domanda oggi che è stata fatta a Verdini in conferenza stampa, o non so, l'intervento diretto di Verdini, era per dire, secondo la versione di Verdini naturalmente, che no, io non ho scaricato nessuno, considero Dell'Utri un amico, una brava persona, eccetera, eccetera, per cui non ho detto delle cose contro contro Dell'Utri. Punto. Per cui, cioè, era, il senso della frase era questo. Non capisco il suo ragionamento. No, io dico solo che siccome sia Dell'Utri che Verdini sono stati sentiti per la stessa questione, come sono stati sentiti Carbone e tanti altri. Sì, no? Sì, d'accordo. Dico che sono legati da qualcosa. Ma non lo so se sono legati, lei già dà per scontato che fanno parte di un'associazione segreta con questo. Lei sta dicendo. Ammetta che ci sia la possibilità, no, che siano complici. Andiamo un po' avanti, che siano complici. Le pare che un complice dica al suo complice, appunto, che è una cattiva persona o persona. Ma complice in che cosa? Scusi, complice in che cosa? Mettiamo che le indagini vadano avanti. Ma complice in che cosa, Davide? Complice in che cosa? Apra gli occhi. Ma complice in che cosa? Ma nego l'evidenza. Ma nego l'evidenza di che cosa? L'evidenza di che cosa? Ma sì, certo che sono implicati nella stessa cosa, su questo non c'è dubbio. E allora le pare che se io sono implicato con lei nella stessa faccenda, dico che Cruciani è un imbecille. Guardi, Davide, ma infatti. Infatti non sono io che ho dato peso alla frase di Verdini su Dell'Utri, è stato l'ascoltatore. Sui suoi passi, Cruciani, perché. Ma su che cosa? Me... Torno sui suoi passi quali? Non ho capito. Quali passi? Quali sarebbero i passi che ho fatto? Sul fatto che lei sostiene che Verdini ha perfettamente ragione su di pensare che Dell'Utri è una brava persona. Me ne frega di quello che pensa Verdini di Dell'Utri a me. Cioè... Sì, va bene, ho detto che ha tutto il diritto di dire che Dell'Utri è una brava persona. Dire tutto il contrario di tutto. Su questo lei è un esperto succede questo. Praticamente ogni sera. Però il fatto che due persone vengano sentiti dagli stessi magistrati per la stessa questione induce a pensare che ci sia un collegamento tra le due persone e non solo un collegamento di che tipo? Fraterno, mi scusi, un collegamento di che tipo? Cioè, siccome i magistrati sentono due persone, siccome i magistrati. Se mia nonna Davide, aveva le ruote era una cariola, lei, che le dica? Lei pensa che ogni azione che venga dalla magistratura sia la verità scolpita? No, assolutamente. Allora? Questo lo pensa lei, lo sta dicendo lei adesso. Io parto dal presupposto che siano innocenti tutti e due, allora? D'accordo? Come a parte che una sentenza in secondo grado. Ma quello non c'entra niente con la P3. Quello non c'entra con la P3. Non c'entra niente con la P3. Lasci stare. Per quanto riguarda Dell'Utri, lei ha detto che non è ancora stato. No, ma tra l'altro ho detto, tra le altre cose. Ma tra le altre cose, la Cassazione non cambia l'esito della sentenza. Comunque. Beh, insomma, non è vero, può anche cambiarlo. Vedremo. Davide, grazie di averci chiamato. Spezziamo un attimo questa follia che riguarda la frase di Verdini su Dell'Utri in questo modo. Elegante contenuto, un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglio. Febbraio gattaio e uno dei grandi piatti del Valdarno era il gatto numido. Perché la gente non mangia il coniglio, non mangia i gatti, il pollo, tanto ce ne sono non mangia il piccione, eccetera. Il gatto, tenuto 3 giorni nell'acqua corrente del torrente Ciuffenna, viene fuori con le sue carnine bianche. E t'assicuro, io l'ho mangiato tante volte, t'assicuro che è una delizia. Ma per gioco dolce. Allora, per questa frase di cui abbiamo parlato a lungo tempo fa, Beppe Bigazzi fu, tra virgolette, cacciato dalla RAI. Adesso torna in televisione. Bigazzi, buonasera. Buonasera. Come sta? Straordinariamente bene. Beh, ci credo. Perché sta straordinariamente bene? Anche perché non è più in televisione, no? Non credo. No, sto straordinariamente bene perché il nostro Signore mi dà la salute, vivo bene, sto bene, tutto qui. Senta, dov'è che torna in televisione? In che canale? Mi sembra Alice, Alice TV su Sky, se non sbaglio. Alice su Sky, sì. Da quando? Da metà settembre, credo. Che tipo di trasmissione sarà? È una trasmissione che si chiama Bischeri e Bischerate. Non è solo di cucina, dunque. Che faccio insieme a Luisanna Armeni e che, come sostengo da tanti anni, dimostrerà come per fare buone ricette sono necessari buoni ingredienti. Sarà questa il fulcro? Senza buoni ingredienti non si fa buona cucina. Naturalmente i buoni ingredienti non sono sufficienti, sì. Ci vuole anche le cotture giuste, gli strumenti di cottura giusti, e poi quando ci si siede a mangiare si deve mangiare, non ci si deve arrabbiare, fare le cose in fretta. Sono cose senza senso. Questo è il mondo della fretta che non raggiunge niente. La fretta è fretta di mettersi in coda quando esce di casa e va in macchina. Se viaggiasse in metropolitana, sto parlando delle città che ce l'hanno, certo, impiegherebbe un terzo del tempo, tranquillo e sereno. Senta, le chiedo una cosa, siccome lei mi ha detto dovrebbe parlare più forte. Sì, sì, parlo più forte. Siccome lei mi ha detto prima so straordinariamente bene, lei anche insomma ha fatto una vita fantastica, è stato amministratore delegato di grandi società, poi si è occupato delle sue passioni, vive in campagna, fa una vita sana. Bigazzi, lei quanti anni ha? Mi scusi se io chiedo. 77. 77. Berlusconi ha appena ripetuto davanti agli ambasciatori che allungare la vita a 120 anni è possibile. È tornato di nuovo su questo argomento. Vabbè, io guardi, queste cose secondo me sono senza senso. In che senso? Scusi il gioco perché di parole. Io posso dire chi mangia bene vive 150 anni. Ma così e allora è un modo di dire, però. È un modo di dire, non diamo importanza a queste cose. No, però siccome uno vive il tempo che deve. D'accordo, che deve ma vivere. È augurabile vivere fino a 120 anni? No, ma il problema è un altro. Come li vive? Certo, certo. In perfetta forma, senza dolori, senza problemi, senza niente, senza vomito, senza. Non so se mi spiego. Questa è la cosa. Il problema è sempre quello. Ma è vero che lei nella nuova trasmissione riproporrà la questione del gatto? Vabbè, questo ora fa parte della stupidità umana. Cioè cosa? No, mi scusi, ho accennato al fatto lingue di gatto e salame di felino, e ci sono dei cretini che hanno pensato che io volessi dare la ricetta di come si fa la lingua salmistrata del gatto e come si fa il salame di gatto. Tra i cretini io non ci sono io perché ho capito perfettamente che lei non voleva. No, mi scusi tanto, il salame di felino sì. È un comune sì. Che fa nel parmense sì. Che fa un salame straordinario che tutti quelli che hanno una testa sulle spalle sanno che il salame di felino è fatto in un certo modo, ma è di puro maiale. Non so se è chiaro. Il felino non c'entra nulla, il gatto non c'entra niente. Non ho capito. Il gatto non c'entra niente. E invece le lingue di gatto? Le lingue di gatto sono dei deliziosi biscottini da tè, credo nati in Piemonte o comunque che dal Piemonte hanno avuto coso, che sono fatte con l'uovo, farina e zucchero. La cosa più semplice che esiste, fini come un'ostia, con una forma ovoidale. Perché si chiamino lingue di gatto non ho idea. Insomma lei ci ha giocato un po' su questa cosa qui. Cioè, insomma, fra l'altro, vede, vuole una conferma di come si fanno le cose nel nostro paese. Tre o quattro, cinque sere fa, sì, dopo il telegiornale delle 20, nella trasmissione da, c'era la signora Fabrizi, purtroppo mancata ed è stata una perdita grandissima, che raccontava come lei da giovane mangiava il gatto, che è il racconto che ho fatto io. Era un racconto che aveva fatto in televisione 12 anni fa, sì, è morta da una diecina d'anni, 9 anni, sì, e né allora né questa volta si è scandalizzato nessuno. Vabbè, era una trasmissione, questa volta non si poteva scandalizzare nessuno perché era una trasmissione vecchia, all'epoca è vero non si scandalizzò nessuno. Ma senta, lei alla fine è uscito dalla RAI in maniera traumatica, cioè non l'hanno voluta più davvero per quella frase oppure no? Traumatica in che no, senso? Ma traumatica nel senso è davvero per quelle cose là che lei poi non io lavora sono, più sono uscito ringraziando, essendo una persona normale, sì, non chiamato da Dio a fare grandi cose, non mi sono incazzato. Se avessi voluto avrei fatto causa alla RAI e la perdeva serenamente e tranquillamente, perché i motivi sono stati travisati, la trasmissione c'è, sì, e sanno che parlavo di cose che accadevano negli anni 30. E se accadeva negli anni 30 si fa oggi? Si riscrive la storia? Siamo in un regime comunista come faceva Stalin, che a ogni congresso cambiava le pagine della enciclopedia sovietica? Pia, non scherziamo. Oh, senta Bigazzi, per cui insomma, alla fine il vero motivo per cui lei è uscito dalla RAI o l'hanno mandata via? Il vero motivo è quello che è stato detto. Poi se sotto c'erano altri motivi, come molti forse non erroneamente pensano, io non lo so. E quali sarebbero questi altri motivi? Questi altri non motivi? Me ne frega niente. questo l'ho capito perfettamente. Senta, lei la televisione la guarda o non la guarda? Quando mi parla un pochino più. Sì, forte. Lei la televisione la guarda o no? Ogni tanto. Ogni tanto, non moltissimo. Ogni tanto il Giro di Francia, i Gran Premi li guardo, le partite di calcio, l'atletica la guardo. Guardo meno le trasmissioni bla bla bla bla bla, dove c'è gli opinionisti del nulla che non sanno niente e parlano. Quelle non le guardo. Quelle no, Ma. Bene, Bigazzi, buon ritorno in televisione, buon ritorno in TV. La ringrazio tanto, buona serata. Grazie, bischeri e bischerate. 1951 800 24 00 24 poteva fare causa alla RAI e invece non l'ha fatta. Mario da Napoli, buonasera. Buonasera. Prego Mario. Pronto? La sento, sì, la sento. Dire su Verdini e Dell'Utri, sì, mi sembra che si stia, diciamo, celebrando il trionfo del giustizialismo. Non dimentichiamoci che siamo nella fase delle indagini con una imputazione che è una vera e propria forzatura anche della legge, che era una legge fatta per sciogliere la P2, non per punire la P3, la P4, la P5. Lei sta parlando dell'associazione segreta? Esattamente. E siamo di fronte a un tentativo, io sono anche impegnato professionalmente. In che senso è impegnato? Sono uno dei difensori impegnati in questa vicenda. Vabbè, allora la sua, diciamo, la sua come dire, la sua visuale di un certo tipo, per carità, legittimo, però è chiaro che lei pensa che sia tutto campato in aria. Infatti io cercherò di non essere né fazioso né di parte, mi limito a dire. Però necessariamente che, Mario, è così, cioè essendo difensore di chi è difensore lei? Di Lombardi. Essendo difensore di Lombardi, cosa che non è per nulla disdicevole, assolutamente, meno male che ci sono i difensori, è evidente che in ogni caso la sua ottica è comunque condizionata da questo, no? Cercherò, sì, ma io lo sto dicendo, non ho la pretesa no, di per carità, ma per assolutamente di non avere un ruolo che è diverso da quello certo, che ho. Certo. Dico semplicemente che sta passando un messaggio e mi soffermo, diciamo, sull'aspetto mediatico, non su quello processuale, perché non credo sarebbe neanche la fede giusta. sta passando un messaggio che è quello che, se non fosse esistito Lombardi, probabilmente il CSM sarebbe stato una specie di conclave dove lo Spirito Santo o qualche spirito omologo avrebbe, diciamo, illuminato quelli che nominavano i preposti agli uffici giudiziari, mentre con questi interventi si attenta all'indipendenza della magistratura o alla serenità delle istituzioni. No, assolutamente questo. Mario, su questo sono d'accordo con lei. L'intervista l'altro giorno, credo all'Unità, di un membro, se non sbaglio, del CSM, che diceva che parlava delle pressioni non ricevute dell'elezione di Marra, eccetera, vanno nella direzione che lei ci sta illustrando. Grazie. 1954 800 24 0024 Gianluigi da Venezia, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Dica. Volevo intervenire sulle diatribe Verdini dell'Utri, solo con una battuta, che però non è proprio una battuta. Secondo me sia Verdini che lei state sbagliando frase, perché dell'Utri non è una brava persona. Bisognava dire persona d'onore ieri, yeah. Così bisognava dire. Vabbè, Gianluigi. Ho finito qui. Grazie. Pier Giorgio, grazie, provincia buonasera. Di Verona, buonasera. Pier Giorgio, mi sente? Non mi sente, Raffaele da Roma. Eccomi. Prego, dica. Pronto? La sento. Ah, ecco, no, perché sono in libreria, c'erano arrivati qualche cliente, l'ho mandati via. No, per carità, Raffaele, no, che manda via i clienti politica, in questo periodo, manda via. Raffaele, mi ascolti? Non mi sente, allora passiamo a Torino. No, la sento benissimo. No, se mi sente, come, manda via i clienti? No, io ho chiuso la libreria. Ah, alle 7:30 chiudevo. Va bene. No, ma era un libro che non ci avevo, non si preoccupi. Non volevo farle perdere un cliente, per carità. No. Senta, no, io, siccome ho sentito Giuliano Ferrara che interveniva, queste cose qua, io ho fatto politica per tanti anni, molti anni. Ma sempre a livello molto di base. E ogni tanto mi trovo all'interno di questa politica tutta una serie di personaggi che prima stavano da una parte, poi stavano dall'altra. Io ritengo che la moralità della politica sia anche avere delle posizioni, non dico sempre uguali, per carità, ma non è che si può passare indistintamente da una parte all'altra come se niente fosse. Io faccio un esempio. Ma cioè, in questo caso a chi si riferisce lei, Raffaele? Allora il bilancio al Senato, sì, che era un esponente del PDUP, Partito Unità Proletaria per il Comunismo, qui alla Casa dello Studente a Roma. Io me lo ritrovo dopo 20 anni, me lo ritrovo indistintamente che sta dall'altra parte della barricata. A me mi cascano le braccia, perché io penso che la politica, nonostante tutto, con tutti i difetti che poteva avere, insomma. Sì, però meno male che è cambiato qualcosa anche da questo punto di vista, Raffaele. Cioè, ma non è che pensa se Azzolini o altri siano rimasti del PDUP, insomma, sarebbe un po' triste. No, è che quando me lo sono visto che faceva il senatore al Senato, io mi sono messo a ridere perché era soprannominato Molfetta. Com'era soprannominato, mi scusi? Ho detto, Com'era soprannominato? Molfetta, perché era di Molfetta. Un attimo solo, resti lì nella sua libreria, Raffaele. 1957, i soldi dei parlamentari. Avere tanti soldi, che gioia, senza problemi. Gioacchino Alfano, buonasera. Salve, buonasera. Detto lo Stakanov di Montecitorio. Uno dei più presenti. Quanto è? 98% di presenti. Lavoro come tanti parlamentari, la verità. Non lo so quanto è la percentuale, ma lavoro come tanti. PDL, come presidente della commissione, capogruppo della commissione bilancio, nonché relatore della manovra. Esatto. Senta, Alfano, lavora come tanti altri. È il recordman, credo, di presenze alla Camera, o no? Sì, no, non credo ci sia il record, perché ci sono alcuni ancora più presenti di me, ma sono presente, ripeto, in un numero sufficiente per fare il mio dovere, per dire che faccio il mio dovere come tanti. Senta, allora, la diminuzione di 1000 euro dello stipendio dei parlamentari, è giusto o sbagliato? Me lo dica subito. Io dico è giusto, l'ho detto più volte, è giusto, perché in questo momento di sacrificio è giusto che anche i parlamentari dimostrano di fare sacrifici. Però si sente, cioè io per dire si sente, si è scatenata a volte una riflessione abbastanza... Cosa si sente? Cosa si sente? Cioè, ridurre lo stipendio ai parlamentari, per parlamentari sono tanti, organizzati per fare bene i parlamentari, quindi con organizzazioni a Roma e organizzazioni nei territori da dove proveniamo. Lo stipendio è buono, anzi in questo momento bisogna dirlo chiaramente, però la riduzione che viene fatta anche per risparmiare risorse, non è solo un fatto simbolico, sì, si sente, quindi uno deve cioè a lei peserà questa riduzione? Certo, io devo riorganizzarmi in qualche posto, nel senso che... Però mi scusi un attimo Alfano, sono 15.000 euro al mese netti. No, se lei dice 15.000 euro, io dico... Per ma in tutto 15.000 sì, netti? Ma le voglio dire, io ho detto che noi abbiamo uno stipendio sicuramente buonissimo e quindi è giusto che diamo un segnale forte, quindi e non è la prima volta che si fa, quindi... Però ho solo aggiunto a questa dichiarazione che noi facciamo diamo un segnale che si sente, non è che è più semplice dire, vabbè, io a me tolgono 1.000 euro... Cioè, secondo lei, togliendo 1.000 euro da 15.000 si sentirà? Insomma, adesso questo mi sembra un po' esagerato. No. Io ripeto, io sono assistenti qui a Roma, le spiego, ma solo per io non voglio difendere un giudizio o un pregiudizio. Dico, quante persone deve mantenere lei? Io ho gli assistenti, due assistenti a Roma, c'ho la segreteria dove abito. Voglio dire, ma per dire, io credo che i questori alla Camera, parlo della Camera, sono deputato, hanno quantificato un taglio in questo momento. Ma è troppo questo taglio, eccessivo o no? È giusto, sinceramente è un taglio giusto. Però lei dice a me peserà. Però dire agli italiani che questo taglio per noi non significa niente, significa dire che noi avevamo uno stipendio che era sproporzionato rispetto a quello che facevamo. L'organizzazione di un parlamentare medio. Ho capito. Siamo qui 22 minuti in collegamento con la Camera dei Deputati, con lo Stakanov di Montecitorio, l'onorevole Gioacchino Alfano del PDL, che ci sta illustrando le difficoltà a cui andrà incontro, credo, da quello che ci dice, con la riduzione di 1.000 euro dello stipendio dei parlamentari che verrà prossimamente. La 7 e torniamo subito ad Alfano, i titoli. La maggioranza andrà avanti anche senza Fini e il governo è saldo. Berlusconi preannuncia la rottura con Fini e Bossi certifica. Ognuno andrà per la sua strada. L'ex ministro Brancher condannato a 2 anni nell'ambito dell'inchiesta sulla scalata Lanton-Veneta. Mai fatto parte di associazioni segrete, mai preso un euro. Dennis Verdini rivendica l'amicizia con Dell'Utri e ribadisce di non volersi dimettere da coordinatore del PDL. Il giornale di Feltri chiama in causa Fini per una misteriosa casa a Monte Carlo, un appartamento lasciato in eredità ad Alleanza Nazionale, ora in uso al cognato del presidente della Camera. Morti 2 militari italiani vicino a Herat, uccisi da un'esplosione durante un'operazione di sminamento. Nell'incidente forse coinvolti anche altri soldati. Alla vigilia del grande esodo estivo, il Senato vara il nuovo codice della strada, tasso alcolico zero per neopatentati e autisti, stretta su microcar e motorini, test antidroga per prendere la licenza di guida, le norme in vigore da venerdì. Si dica sì o no alla modernizzazione, la Fiat lancia un ultimatum ai sindacati, conferma degli investimenti in cambio di garanzie sull'efficienza degli stabilimenti, Marchionne assicura, il trasferimento in Serbia non danneggia Mirafiori. Inchiesta sulle discoteche, il Fatto Quotidiano attacca Lele Mora, lo accusa di essere il RAS della Milano by Night, lui replica ai nostri microfoni, con la droga non c'entro. Beh, secondo il Fatto, a leggere il Fatto di questa mattina, Berlusconi sarebbe sostanzialmente il deus ex machina della Milano della cocaina, una cosa incredibile. 24 minuti, Alfano, mi spieghi bene questa cosa, lei quanti figli ha? Io ho 4 figli e una nipote, sono da nonno. A carico pure la nipote? Sì. E la moglie? A carico? Ma, sì, ecco, certo, è casalinga. Dunque, no. lei dice 1.000 euro pesano, 1.000 euro peseranno. Io stavo dicendo che è ovvio che il Parlamento deve dimostrare che i tagli vanno fatti anche sugli sprechi, quindi deve essere un segnale che deve continuare. Però le posso assicurare che mi sono sentito, e le ripeto anche a lei, che 1.000 euro per un parlamentare che si organizza, e ce ne sono tanti qui a Roma, con un'attività che sia degna della carica, 1.000 euro sono, si sentono. Non è che uno può dire in più o in meno, non significano niente. Perché, beh, su 15.000 però, Alfano, su 15.000. No, voglio dire, perché i 15.000 calcolano anche l'organizzazione della segreteria e la permanenza a Roma. Poi è ovvio che ci può essere chi, alcuni possono essere troppi o pochi, però le ripeto, io ho solo detto, e lo ripeto con la semplicità di chi lavora, le ripeto, è una cosa che vedo frequente. Ma quanto paga di mutuo lei? Di mutuo quanto paga, per esempio? È un taglio, io pago ma io pago 1500 euro di mutuo al mese, ma le ripeto, adesso un'Italia che sta soffrendo, dove ci sono famiglie che con 1500 euro devono vivere tutto il mese, dobbiamo andare incontro a questo, bisogna avere, ecco, però c'è un sacco di gente che ci sta scrivendo, c'è un sacco di gente che ci sta scrivendo, esatto, no, e dice ma io anch'io ho moglie e figli a carico e non prendo quei soldi lì, no, è ovvio, ma ripeto, ma se uno mi fa una domanda io cerco di essere onesto nella risposta, certo, certo, ovvio, giusto, lei deve essere onesto nella risposta. Se lei mi dice lei è uno sfortunato, cioè, ci mancherebbe altro, anzi mi ritengo, lei dice di essere fortunato, diciamo, un'istituzione che lavora, che ha una retribuzione e un'indennità che è sicuramente importante, legata all'indennità e all'attività, cioè lei pensa di essere fortunato rispetto agli altri? Fortunatissimo, anzi sono orgoglioso di quello che faccio, spero di farlo bene, anzi privilegiato rispetto ad altri. Però mi sembrava ancora più offensivo dire a chi mi chiedeva una valutazione su una riduzione di un'indennità complessiva, dire vabbè, l'influenza, abbiamo fatto un sacrificio, finisce lì, perché poi capisco che il sacrificio, io spero sia un sacrificio che abbia un senso, che serva agli italiani, perché poi se i parlamentari, questo adesso lo dico a nome dei parlamentari, fanno un sacrificio dicendo noi abbiamo fatto la nostra parte con il taglio e poi non si impegnano a portare avanti iniziative legislative, no, beh, certo, ma secondo lei, mi scusi un attimo Alfano, mi scusi un attimo, no, è chiaro questo concetto, no, ma è chiarissimo, secondo lei questo taglio è una cosa demagogica, cioè serve oppure è solo un segnale? Non mi spieghi bene questa cosa. Il taglio per me serve perché dà due segnali. Uno, che lo stipendio dei parlamentari in questo momento rispetto agli stipendi degli italiani è uno stipendio buono e quindi va ridotto in questo momento storico. Primo. Secondo, poi, poiché diciamo, si lega anche all'attività e quindi buona parte dello stipendio e dell'indennità è legato al servizio, allora, che il parlamentare deve fare, e anche dire bisogna essere degni dell'importo, degli importi che si prendono, organizzando segreterie, facendo attività politica. Per lei personalmente è un sacrificio, però per lei personalmente è un sacrificio. Come fanno molti, io le ripeto, io ho detto si sentono, cioè in effetti io non è che se col taglio io sto bene e rimango un soggetto italiano fortunato che sta bene, però devo dire che quel taglio è un taglio che tu verifichi, che devi, di cui devi tenere conto. Bisogna organizzarsi per, ma lei appunto, poi ci possono essere valutazioni, lei non può immaginare quante persone hanno commentato nel bene e nel male queste mie dichiarazioni, che sono il frutto di quello che io testimonio come parlamentare italiano che vivi nella provincia di Napoli con una famiglia di quattro figli e una moglie casalinga, appunto. Poi tutto quello che può essere la valutazione sulla posizione mia come anche altri parlamentari, è ovvio che un parlamentare rispetto a tante famiglie italiane. Senta, Alfano, voglio capire una cosa, ma lei quanto lavora in Parlamento? Quanto sta in Parlamento? Ma anche per la funzione che svolgo, per come io intendo fare il parlamentare, io arrivo il lunedì pomeriggio e ritorno a casa il venerdì mattina, poi dipende anche media, poi dipende anche dai lavori, dal programma della Camera. Va bene, grazie. A voi, 29 minuti, 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Torino. Alessandro, buonasera. Cruciani. Dica. Io ho intervenuto per l'affermazione di Fini sul fatto che gli indagati dovessero dimettersi, però mi permettevo solo di dire una cosa agli ascoltatori precedenti, cioè difendere l'amicizia è comunque anche un diritto, e poi questo sia di un politico che sia di un prete, di un camorrista, se effettivamente Verdini è amico dell'Utri, perché non lo deve difendere? Ma non, poi si può discutere il metodo, il modo, le parole, però io posso avere il diritto di difendere un mio amico, questo volevo solo dire, perché secondo me è questo che voleva dire Verdini. Siamo qui 2011 800 24 00 24. Collegamento di nuovo con la libreria di Roma, dove c'è Raffaele. Che libreria è la sua, Raffaele? Così facciamo un po' di libreria universitaria. Facciamo un po' di pubblicità. Dove si trova? Qui a Roma, Viale Ippocrate, dove sarà la Sapienza. Ah, beh, mitica, una delle librerie di Viale Ippocrate. Io proprio con tutte le leggi che fanno in Parlamento, io cambio i codici. In che senso, scusi? Allora, quest'anno, lei non ci potrà credere, il codice penale ne hanno già fatti due i codici, in questo senso, sei mesi. Non faccio in tempo a prendere dei codici che li devo dare indietro perché sono già cambiati. Vabbè, forse è meglio per lei, vende di più forse. Io sono 20 anni che sono in questo settore. Prima un tempo un codice durava un anno, due anni, tre anni. Adesso le leggi, praticamente i manuali, i codici, sei mesi, cinque mesi, perché si sta... senza mai stabilizzare le cose. Anch'io ho studiato in quella follia che è la Sapienza. Anche le mie idee, per carità. No, no, semplicemente Raffaele, ma lei mi riesce ad ascoltarmi o no? Il paese che ci abbiamo. Raffaele, mi ascolta o no? Certo che l'ascolto. No, perché lei parla, ma quando parla poi non mi ascolta. Allora, ha ragione, questo me lo dicono molti, c'ha ragione. Non lo so, no, magari lei sente parlare, però va avanti nel discorso. No, le stavo dicendo che anch'io ho studiato in quella follia che è la Sapienza, proprio là vicino. Spesso sì. Ho comprato dei libri, magari da lei. Da quanti anni ha la sua libreria? Sono 20 anni che sto qua. 20 anni. Sono 89, anzi, sono pure 89, più 20. Sì, no, sicuramente. Senta, allora, di che mi voleva parlare? No, io volevo parlare della cosiddetta moralità della politica. Io ho fatto politica per tanti anni. La cosa che mi sta sconvolgendo in questi anni è il passaggio, così come se niente fosse, di una serie di personaggi che indistintamente vanno a sinistra, poi vanno a destra, poi ritornano un'altra volta a sinistra. No, io le facevo un esempio, no? Io mi ricordo nel 77 si fece questo, c'era Occupazione della Casa dello Studente, e c'era un personaggio, si chiama Molfetta. Dopodiché io me lo ritrovo dopo 30 anni relatore al bilancio al Senato. Beh, ma ci sono un sacco di persone che militavano, oh, diciamo, della sinistra extraparlamentare e oggi sono nel centrodestra, no? Il mondo non poter che cambiare. Però fare, come si dice, saltare la cavallina è una cosa che secondo me non sta in piedi. No, però mi scusi, Raffaele, ripeto, ci sono un sacco di esempi di persone che militavano nell'estrema sinistra negli anni 60, negli anni 70, che adesso sono nel centrodestra. Insomma, se dovessimo andare a riprendere il passato, è il passato di un tempo, di quella guerra si faceva politica, si faceva anche delle rotture. Sì, ma io non rimpiango quel tempo. È uscita. Beh, Raffaele, non mi sento. Una sua dignità, una sua moralità. Raffaele, non bisogna rimpiangere quel tempo. La ringrazio. Tanto lei non mi sente. Francesco da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Dunque, io volevo sottolineare un attimo il discorso del ministro Alfano, che in verità ha offeso un po' la mia e credo l'intelligenza di parecchie persone. Addirittura, addirittura. Cioè, è assurdo sentir dire che si viene penalizzati dal sacrificio di... Pesano, ha detto. Sì, sì. Pesa che io mi alzo alle 4 di notte per guadagnare in un anno quello che lui guadagna in un mese. Questo pesa. Pesano per l'attività che lui deve fare da parlamentare, in questo senso? Ma io pure, io faccio trasporti di alimentari, ho una grossa responsabilità. Se non faccio i miei trasporti fatti a mestiere, le persone non mangiano il salume fresco. Quindi, voglio dire, lasciamo perdere comunque sia. Sono d'accordo che loro abbiano un trattamento differente perché hanno in mano le sorti del paese. Lasciamo perdere in che modo le gestiscono. Ma trovo veramente vergognoso la sua, non lamentela, ma la sua puntualizzazione. Ha parlato di un giusto sacrificio, ma qual è il sacrificio? Lei dice 1000 su 15.000. Bene, Francesco, grazie. E siamo qui alle 20.17, 800 24 00 24. Ugo da Catania, buonasera. Ugo? Io telefonavo solo per un'osservazione, forse io sono uno dei tanti che non ha capito. Sì. Volevo sapere lei cosa risponderebbe, cioè se io dicessi Ballanzasca è una brava persona o un qualunque altro bandito, lei direbbe che io posso permettermelo, posso dire una cosa del genere? Lei sta paragonando Ballanzasca a Dell'Utri o a un qualsiasi altro bandito, o Dell'Utri a qualsiasi altro bandito? No, mi dica questo, perché se lei parte da questo presupposto allora è diverso. No, io parto dal presupposto che ci sono delle persone che hanno a che fare con la giustizia. Io ho avuto in più allora con la giustizia e sono rimasto illeso, non sono mai stato condannato. Sì, però Ugo, ho avuto 5 processi e sono sempre stato... E allora, accolto. Dunque, non ho capito, la conclusione di questo ragionamento qual è? Ma se lei non capisce è perché non vuol capire. No. Il problema, secondo me, è che non è detto che Verdini uno possa dire tizio, è una brava persona. Verdini ha detto, Dell'Utri è un mio amico ed è una brava ed è una persona per bene. Qual è il punto? Non ho capito. Gliel'ho detto, allora io le chiedo, per lei sono tutte persone per bene? Ma non lo so, ma è una valutazione personale quella lì, fatta da Verdini nei confronti di Dell'Utri. Non vedo dov'è lo scandalo, Ugo, non vedo francamente. Quindi allora, se è una valutazione personale quella fatta da Verdini, io posso dire come valutazione personale che Ballantasca, Riina sono brave persone. Guardi, il paragone, è, il paragone è respinto, Ugo. Il suo paragone no, è respinto. Il paragone che lei sta facendo viene respinto dal conduttore come non calzante. Come vuole che glielo dica? Ho capito. No, ma non ho il coltello. Io, secondo me, lei sta parlando. Io sto dicendo, lei ha fatto un paragone. Si può dire che ognuno può dire quel che vuole in un caso e in un altro no. Anche perché ho da fare una domanda, io ammetto la mia ignoranza. Ma non c'entra niente l'ignoranza, che c'entra l'ignoranza? No, ma io adesso sto facendo una domanda. La Cassazione, mi dica, la Cassazione? Ecco, la Cassazione, quando dovesse assolvere Dell'Utri, lo assolverebbe perché Dell'Utri non ha commesso i fatti o perché ci sono dei vizi di forma? Mi scusi, abbia pazienza, ma perché dobbiamo entrare in questa materia? Stiamo discutendo di una frase di Verdini che rispondeva a un'altra cosa. La frase di Verdini, no, è inutile che la faccio riascoltare, c'erano state delle indiscrezioni sui giornali o delle cose scritte sui giornali. Il problema è che lei, se io dico Vallanzasca è un galantuomo, ho il diritto di dirlo. Ma non lo so, se un familiare di Vallanzasca o qualcuno che conosce Vallanzasca dicesse Vallanzasca è una persona per bene, non ne farei una cosa. Allora, io concludo che non c'è peggior sordo di chi non può sentire. Va bene, io sono sordo allora. Alla morte questa posizione, nonostante ma non è, ho avuto che molti di quelli che hanno telefonato non siano d'accordo con lei. Va bene, ma sa, d'accordo, io infatti accetto le critiche, ci stiamo confrontando. Franco Barbato, buonasera, caro Franco, come stai? Buonasera alla Zanzara. Come stai? E a tutti questi diamoci ascoltatori. Del tu. Diamoci certo. del tu, diamoci va del benissimo. Tu. Va benissimo, va bene, grazie. Allora, di che vogliamo parlare? Innanzitutto di una cosa, i numeri dell'otto, ma raccontami questa storia strepitosa dei numeri dell'otto, cioè la vicenda della Camera dei Deputati in cui sei stato coinvolto, i pugni, eccetera, eccetera, ha fatto vincere qualcuno all'otto. Spiegami questa cosa perché è bellissimo. Sì, domenica scorsa ero nel mio paesino a raccogliere le firme per i 3 referendum che ha proposto l'Italia dei Valori. Sì. E mentre ero lì al banchetto a raccogliere le firme, mi si è avvicinato un signore il quale mi dice: onorevole, io devo ringraziarla. E dico: perché? E guardi, lei mi ha messo una barca di soldi in tasca. Dico: piano piano, fammi capire, qui con i che corrono, dove persone si trovano case regalate senza capire neanche come, fammi capire questa storia, che è sto trucco. E lui mi dice: no, onorevole, io l'ho seguita e la seguo sempre, anche nella vicenda ultima in Parlamento, dove è stata aggredita e si è beccata un cazzotto in faccia. E allora cosa ha fatto questo? E poiché io, tra l'altro, amo giocare all'otto, sono immediatamente andato a giocarmi i numeri all'otto e li ho giocati sulla ruota di Roma, perché il fatto che le riguardava è accaduto a Roma. E che numeri ha giocato? E mi sono giocato questi numeri, che sono i numeri dell'onorevole che fa 62. Perché poi, 62 che è l'onorevole 62? Sì. Poi 73 che fa l'ospedale e infine 15, perché sono i 15 giorni di guarigione che le ha dato l'ospedale. Ma è un genio questo qua, e com'è finita? No, lui praticamente dice: guarda, la cabala diceva che questi erano i numeri da giocarsi per quel fatto che è successo, era così evidente. Un onorevole che ha preso le botte, è stato menato, l'hanno portato in ospedale e ha avuto 15 giorni di guarigione, erano talmente evidenti. Anzi, mi ha aggiunto, dice: peccato, perché non l'ho seguita fino in fondo, non ho rispettato le sue indicazioni, mi diceva e mi faceva quasi ridere, perché poteva addirittura fare la cinquina piena, perché gli altri due numeri che sono usciti sempre sulla ruota di Roma erano 18 che fa il sangue, e lei aveva il sangue nell'occhio, perché l'hanno portato in ospedale perché aveva il sangue nell'occhio. Dunque, se avesse giocato, e poi l'altro numero qual era? E l'altro numero dice, e lei alla fine poi ha combinato un terremoto, un vero terremoto politico, e il terremoto fa 89, eppure è uscito, quindi tutti e 5 i numeri. Beh, il terremoto era più complicato, Beh sì, questo sì, per la verità, mentre gli altri 4 forse ci stavano, stavano tutti, la quaterna ci stava, e infatti lui poi ha preso, e quanto ha vinto? Quanto ha vinto? No, non me l'ha voluto dire perché mi diceva di una somma abbastanza significativa, importante. Beh, insomma, immagino che sia contento, certo. Ha preferito mantenere l'anonimato, né tantomeno dirmi cosa aveste vinto. Vero è che non ho neanche chiesto. Fantastico, perché... fantastico. Allora, adesso per qualche minuto l'onorevole Barbato ci concederà la sua voce nella nostra tenzone, le ugole del palazzo. Vi faccio ascoltare solo l'ultima in ordine di tempo. Erminia Mazzoni, europarlamentare del PDL, ma la femmina, devo dire, molto molto brava. Sentite. Femmana, tu si nama la femmana, chi sto chi è fatta chiagnara, lacrime infamità. Femmana, allora, prima di fare esibire l'onorevole Barbato, voglio però sapere una cosa, Barbato. Lei è stato ospite addirittura in una trasmissione sugli anni Ottanta di recente su Italia 1, o sbaglio? No, ospite no, sono stato, diciamo, intervistato. Stato da alcune giornaliste e da la diavolina che è venuta qui in Piazza delle Coppelle, dove solitamente mi trattengo. E come mai? E non lo so, perché forse sanno che è il mio ritrovo, perché lì è sotto casa mia, dove abito qui a Roma, e quindi me le sono trovate letteralmente addosso. M'hanno forse intervistato, e naturalmente a me non dispiace, nel senso che se pensavano di mettermi in difficoltà nel modo più assoluto. Ma cosa le hanno chiesto, mi scusi? Mi hanno chiesto se, come avveniva negli anni Ottanta con De Michelis, io amavo, e i politici amano ballare, divertirsi, e io ho detto: guardi, io sono molto rigoroso nel mio lavoro, ma alla fine del lavoro, vede, io abito qui, il Parlamento è a 100 metri più avanti, solitamente incontro e ricevo le persone qui a Piazza delle Coppelle, in questo bar all'aperto, alla luce che del sole, che è uno dei bar alla moda di Roma. Ma no, ma perché? Beh, un po' sì, un po' sì. Incontrare lì alla luce del sole tutti, perché io non incontro piduisti, camorristi o affaristi. E allora li incontro in piazza, le persone che mi vengono a parlare, che mi sottopongono i loro problemi. Certo, certo. Parliamo di politica. Senta, alta marea di Venditti, parta! Ah, le piace questa? E come no, mi piace. Vada. Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora, tutte dentro di me, come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. È il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola. Va bene così? Fantastico, fantastico. Applausi. Per rivederci ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio. Quanto ti voglio, canti con me, quanto ti voglio. Vada. Com'è che fa, Barbato? Quanto ti voglio. Tu sei dentro di me. Poi? Come l'alta marea. Che riappare e scompare portandomi via. Il mistero profondo, il la mistero, passione, l'idea, dell'immensa paura che mi ha. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per vederti ancora, per uno sguardo, per il mio. Voglio. Grazie Barbato, buona serata. Ma intanto quello che è successo stamane, quest'altra bugia. Domani ne parliamo, domani ne parliamo. Parliamo domani, sì, di quest'altra. La chiamiamo assolutamente, assolutamente. Calunnia che è stata lanciata sul giornale. Io scriverò una lettera. A domani. Ci parliamo, ma lo leggerete sul giornale di domani. Penso. Ci sentiamo domani, 20 a 29, grazie. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare. La Zanzara.